Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, due sole giornate di campionato, ma qualche indicazione significativa c'è già. Beh, la prima riguarda evidentemente il Napoli. Lo scorso anno i confronti diretti li aveva persi, quest'anno il primo lo ha vinto e lo ha vinto giocando un'altra eccellente partita dopo quella di Manchester in Coppa. A ruota viene direi la Juventus, non altrettanto bella, però certamente concreta, razionale, insomma si direbbe più rassicurante rispetto alle passate stagioni, cui comunque la partenza non era mai stata disastrosa come poi fu invece l'andamento del resto della stagione. Ma sono significative anche le note negative, a cominciare da Milan e Inter, sono le due squadre favorite della vigilia, hanno messo insieme due punti in due, un punto a testa, esattamente come la Lazio e la Roma. È vero che ci sono stati già due confronti diretti sull'asse Milano-Roma, ma non accadeva da 30 anni che le quattro squadre metropolitane per eccellenza partissero così male, dalla stagione 81-82. Poi c'è la sorpresa Cagliari, c'è il fenomeno udinese, lo chiamo fenomeno perché un anno fa aveva in squadra Sanchez, Ingler e Zapata e a quest'ora era a zero punti. Adesso ha 60 milioni in più circa nelle casse sociali, da 55 a 60, insomma, secondo le stime più attendibili, e ha 6 punti su 6 dopo aver venduto appunto 3 dei suoi gioielli, perché non erano gli unici ma erano 3 dei suoi gioielli. Qualche altro numero segnalatomi da Franco Piantanida: beh, l'imbattibilità dei portieri. Lo scorso anno a quest'ora l'unico ad essere imbattuto era Antonioli, portiere del Cesena, adesso sono due, Andanovic dell'Udinese e Andukar del Catania. E il Siena e Bologna sono le squadre che non hanno ancora segnato. Gli unici a bersaglio in tutte e due, gli unici giocatori a bersaglio in tutte e due le giornate sono Giovinco e Di Natale. Di Natale ha fatto gol anche in Europa League e quindi continua questo momento dei non giganti, no? Non dico dei nani, ma insomma certamente di quelli che non è la statura a distinguere in maniera particolare. La prima vittoria di Mazzarri su Allegri in 6 confronti dopo 2 pareggi e 3 sconfitte è arrivata nella vigilia del giorno di San Gennaro o San Edison Cavani, a piacere, perché insomma, mi pare che dopo come è andata ieri sera Cavani sia a ruota, se non proprio ancora a parità di culto. Adesso sentiamo qualche, in attesa dei vostri interventi in diretta tipici del lunedì, che quest'anno poi si ripiegheranno, questa settimana si ripiegheranno il giovedì, visto che mercoledì sera si rigioca in campionato con un anticipo già domani Novara-Inter e un posticipo Roma-Siena la sera per l'appunto del giovedì. Dicevo, in attesa dei vostri interventi che potete cominciare a prenotare, mi pare che la copertina vada proprio a San Edison Cavani. Prima di tutto, guarda, è bellissimo vedere questo ambiente, questa gioia, questa allegria, perché veramente abbiamo fatto una grande gara, abbiamo vinto una bellissima partita, quindi quello è quello più importante. Guarda, noi sappiamo quali sono i nostri difetti, i nostri limiti, quindi sappiamo che dobbiamo lavorare come stiamo facendo fino adesso, tutti i giorni e ogni partita fare il massimo, quindi andiamo avanti per questa strada. Adesso dobbiamo pensare a mercoledì, che abbiamo una partita difficilissima. Se sappiamo che è molto difficile questo campionato, è molto lungo, quindi dobbiamo continuare a lavorare. Beh, con Osordato innamorato sullo sfondo, era evidentemente un'intervista di ieri sera del dopo partita. Certo, io non so a quale dei 3 gol di Cavani sia successo quello che un ascoltatore napoletano della scorsa settimana ci ha detto essere accaduto. Io penso più al secondo, probabilmente, che quello del vantaggio, però è anche vero che una prima prudenza la Cavani l'ha centrata pareggiando 2 minuti dopo il gol di Aquilani, che era un momento delicatissimo della partita. Il gol del 2-1 è quello che poi ha segnato materialmente la partita, il gol del 3-1 è quello che l'ha chiusa. Scegliete voi e riascoltatevi questo frammento di un ascoltatore napoletano che ci ha raccontato più o meno che effetto aveva fatto il gol di Cavani a Manchester, chissà i 3 di ieri. Mi permetto di arrivare una frase in diretta napoletana. Ieri al gol del Mazzador Cavani, un barcone mi si è scarrubato. e chissà quante volte se l'ha sgarubato, almeno tre volte ieri sera. Proviamo a prenderla in controluce adesso e a passare invece ad un caso di segno opposto, molto diverso. Ha fatto rumore la sconfitta casalinga della Lazio di ieri, perché la Lazio aveva fatto un eccellente esordio a San Siro contro il Milan. È certamente quest'anno, era una delle squadre, se non favorite per il titolo, comunque attese a battersi ad alto livello, e alla sconfitta con il Genoa è seguita anche una dura contestazione, in particolare nei confronti dell'allenatore. Sentiamo come l'ha presa Reia. Purtroppo non ho certamente un ottimo feeling con la tifoseria, questo lo sappiamo perfettamente, le critiche sono sempre alla portata. È chiaro che in questo clima di sfiducia diventa difficile lavorare, e questo non posso assolutamente nasconderlo, però il Presidente sa come la penso, e sotto questo punto di vista chiedete eventualmente al Presidente, perché io mi sono preso qui delle responsabilità di tutto, anche qualcosa in più, no? Sotto un certo punto di vista, ma d'altronde questo è il mio compito, devo cercare di dare fiducia in modo particolare ai ragazzi, avere coesione all'interno dello spogliatoio e dare fiducia a tutti quanti. Sì, Reia Amaro si era persino parlato dell'ipotesi di dimissioni, perché la sensazione, ascoltando Reia ieri, è che fosse abbastanza sazio davvero di questa situazione ambientale. E invece il suo procuratore stamane, Marco Naletilic, ha affermato che certamente Reia non si dimette. Qualche altra situazione in giro? Beh, insomma, intanto un parallelo con un anno fa lo fa Matri ha firmato il gol della vittoria della Juventus a Siena e ha subito messo in piedi un paragone con la stessa partita giocata un anno fa. Sentiamo. Queste partite l'anno scorso molte volte magari andavamo in vantaggio, poi ci facevamo recuperare appunto per non so cosa, forse un problema mentale, un problema non so. Poi invece quest'anno c'è la consapevolezza di poter far bene e la consapevolezza appunto di che ormai le cose brutte le abbiamo passate, quindi dobbiamo cercare di, una volta passati in vantaggio, di mantenere il risultato e anzi cercare di fare ancora la partita. Gabriele scrive da Treviso: ho notato che dopo aver fatto 6 punti su 6, anche non giocando benissimo, che poi è vero fino a un certo punto, la Juve sta perdendo l'8% in borsa. Mi faccia capire, grazie, non sono la persona più indicata, perché quello che ho capito io in questi anni è che una società di calcio quotata in borsa è un'assurdità totale. Dunque ci sta tranquillamente anche un andamento di questo genere. Un veronese che si chiama Fabrizio segnala che Cavani è uno degli attaccanti più forti oggi in Italia, ma segnala anche una rarità assoluta: è uno dei pochi che non ha tatuaggi, uno dei pochi giocatori non tatuati, e per questo gli è particolarmente simpatico, non solo a lui. Un fine settimana contrassegnato e anche caratterizzato anche da alcuni brutti infortuni, e direi anche da alcune mancate espulsioni, perché mi pare che Lucio a San Siro e Montolivo a Udine proprio l'espulsione l'avessero abbondantemente prenotata. Non capisco come gli arbitri, continuo a non capire come gli arbitri non sanzionino con ben altra gravità entrate di quella natura. L'incidente più grave è sembrato quello subito da Gilardino. Sì, tranquillo, perché l'TAC ha escluso una frattura, quindi domani faremo altri accertamenti, faremo una risonanza, quindi speriamo che non sia nulla di grave, perché è stato un contatto molto duro, poi ho messo male il ginocchio, quindi però speriamo che sia solo una forte contusione, domani faccio la risonanza e vediamo. Mi dispiace per questa sconfitta, però adesso penso a riprendermi, non so quanto ci vorrà, e speriamo di poter rientrare più presto per aiutare la squadra. Ecco l'esito della risonanza, che ha escluso problemi molto gravi, ma insomma ha anche confermato che l'infortunio di Gilardino non è così lieve. Si tratta di una microfrattura al piatto tibiale associata a una sollecitazione della capsula articolare del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Morale: almeno 5-6 settimane di prognosi per la ripresa dell'attività agonistica, e quindi, nella migliore delle ipotesi, 2 mesi prima di tornare in campo. I primi ascoltatori di oggi: Paolo, provincia di Ancona, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Niente, da tifoso juventino rimane ancora grosso il rammarico di vedere Giovinco in un'altra squadra e aver preso Giaccherini. Quindi complimenti alla società, anche se secondo me il rimpianto più grosso è degli allenatori che l'hanno avuto, prima Ferrara, poi Del Neri, che non hanno mai puntato su di lui, l'hanno messo in condizioni di andare via e quindi la società ha fatto le scelte. L'unica cosa buona è che Conte ha provato a riprenderselo e quindi forse un po' più De Calcio ne capisce dei suoi predecessori. Tutto qui, salve. Sentiamolo Giovinco, dopo questa giornata di ieri in cui è stato protagonista assoluto dall'inizio alla fine, nel senso che ha sbloccato il risultato, poi nota che il Parma è stato raggiunto quasi nel finale, ormai l'1-1 sembrava scritto e inchiodato, per carità ha sfruttato un eccellente assist dalla destra, ma insomma se l'è giocata molto bene anche in quel caso e quindi ha segnato il gol della vittoria, il terzo in due giornate, e poi alla fine ha trovato il modo di commettere un'ingenuità e di farsi espellere. Giovinco. Un gusto doppio, perché comunque abbiamo segnato quasi al 90esimo, quindi è una vittoria doppia. No, non l'ho sentito, poi sinceramente non era neanche fallo, ho tirato non avendo sentito il fischio. Tra l'altro mi sembra che il primo tempo era successa la stessa occasione, ma non era stato ammonito, ecco, quindi. Però l'importante è che abbiamo vinto. Poi. Speriamo di continuare così, ecco, adesso mercoledì è una partita importante e speriamo di far bene. Un ascoltatore segnala, gioco anch'io a pallone, in eccellenza, sono l'unico nella mia squadra senza tatuaggi, tenga duro almeno lei, perché se oggi per distinguersi ho l'impressione che l'unica sia proprio quella, no? di evitare. Francesco Napoli, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, sono Francesco da Napoli, tifo per il Napoli. Allora, io sono un suo fedele ascoltatore e quindi in questi anni so qual è l'idea che lei ha del pallone d'oro e che condivido in pieno. Le volevo chiedere, secondo lei un giocatore come Cavani, che sta facendo la stagione che sta facendo e quello che ha fatto l'anno scorso, giocando in un'ottima squadra come il Napoli, che però non è né il Barcellona né il Real Madrid, se secondo lei meriterebbe il pallone d'oro? E poi se il Napoli attualmente si può definire come la squadra, diciamo, più in forma italiana e se e quante possibilità ha il Napoli di poter vincere lo scudetto? Vabbè, allora l'ultima me la risparmi per cortesia. Io dico non poche, dopo due giornate mi fermerei a non poche, anche perché una volta eravate leggermente più scaramantici voi napoletani, almeno io vi ricordo così ai tempi in cui vi frequentavo più da vicino e ho vissuto anche per un anno indimenticabile nella vostra città. Parliamo di tanti, tanti anni fa. Cavani pallone d'oro, sinceramente lei sa appunto che mi lascia freddino la cosa. Io credo che non sia facilissimo oggi. Intanto mancano, mi pare, 3 mesi all'assegnazione. Non è tanto una questione di ribalte, perché il Napoli è arrivato in Europa grazie anche ai gol anche e soprattutto ai gol di Cavani lo scorso anno. Adesso lui ha ricominciato a segnare. Però c'è anche questi trofei hanno anche una valenza internazionale, di non solo di club ma di nazionali. Quest'anno l'Uruguay ha vinto la Coppa America, ma l'ha vinta senza Cavani, poi un po' per infortunio e un po' per scelte dell'allenatore, e quindi diciamo che questa ribalta gli è mancata. Non credo che i napoletani, se Cavani non dovesse vincere il pallone d'oro ma in compenso dovesse aggiudicarsi qualcos'altro di collettivo, non credo poi che ne farebbero una grande malattia. Da Lecco ha chiamato Cristiano, buongiorno. Sì, buongiorno Garantini. Due considerazioni in merito, comunque mi rilascio alla sua apertura. Io penso che il Napoli, e mi rifaccio anche alle considerazioni di Galeone, che era stato attento l'anno precedente, no? Ma un attimino meravigliato quando ha messo il Napoli, diciamo, non tra le favorite, dicendo che se avesse ripetuto l'anno precedente già avrebbe fatto un miracolo. Ecco, non sono assolutamente d'accordo. Io credo che Amsic, Cavani e Lavezzi sia sicuramente il trio d'attacco, per come amalgamato e per valore di singoli giocatori, il trio d'attacco più forte del campionato italiano, adesso che Tosin è andato dall'Inter, e forse uno tra i più forti d'Europa, anche proprio per come si combinano i tre. Negli altri reparti non sono messi male, perché comunque Campagnaro secondo me è un centrale molto forte, Maggio è uno degli esterni più bravi che sono in Italia, insomma secondo me è stato un po' avaro Galeone. E invece la seconda considerazione, sono tifoso juventino, sono abbastanza soddisfatto, insomma, però voglio vedere Conte. Ho fatto il conto prima, al netto di Iaquinta Mauri abbiamo 10 giocatori per 4 ruoli davanti, non siamo così, diciamo, la truppa non è così ben numerosa invece a centrocampo e di dietro, insomma. Secondo me non è molto equilibrata come rosa, però confido, insomma, nella bravura di Conte anche in gestire in questa situazione. La ringrazio e buon lavoro. Grazie a lei, Cristiano. Beh, si può discutere sul trio Meraviglia del Napoli se sia o meno il più forte d'Europa, no, mi sentirei di escludere in partenza. Che in Italia è un trio certamente di primo ordine, forse di primissimo livello. Il Napoli lo aveva già questo trio, averlo riconfermato è stato un merito della società, perché sappiamo che le tentazioni sono state tante, soprattutto per Hamsik, ma credo che oltre a quel trio adesso ci sia anche un'altra qualità. Credo che, insomma, la differenza del Napoli attuale rispetto all'anno scorso sia Ingler e sia eventualmente Gemaili, che mi sembra un altro bel centrocampista di lotta e di governo. Cioè, il Napoli ha più qualità dove lo scorso anno ne aveva davvero poca. Lì lo scorso anno aveva grandi qualità di temperamento, agonistiche, però qualità tecniche ne aveva meno. Ingler ha le stesse qualità agonistiche, persino eccessive, nel caso di ieri sera mi pare che Tagliavento gli abbia risparmiato qualcosa in più di un'occasione, se è per quello, ma è un gran giocatore dal punto di vista della personalità e dei piedi, e quindi lì mi sa che il Napoli ha fatto il salto. Marco ha chiamato da Napoli, buongiorno. Buongiorno, senta, volevo parlare di Pirlo. Che ne dicono tutti, diciamo, gli autori del calcio? Pirlo, secondo me, lo va bene per tutti i modi, perché lo sport sia il calcio. Quindi non sono per niente d'accordo con quelle persone che dicono che Pirlo è stato ceduto, cioè è stato lasciato libero dal Milan perché praticamente hanno scelto di cambiare modulo. Quindi è un'ottimissima cosa. Visto che sabato ho sentito ancora una volta qualcuno che ventilava l'ipotesi di giocare a 16 squadre perché si gioca troppo. Io dico, da tifoso appassionato, dico che per me si gioca troppo poco e auspicherei che si giocasse di più, perché diciamo che in Italia sta vivendo un momento, diciamo, un pochettino triste, quindi ci dobbiamo sbarcare di sera, diciamo per Pinto, Sallussi e quant'altro. Quindi per noi il calcio è un poco di, diciamo, meglio dire che possiamo evadere dalla quotidianità. Sì Marco, era tutto un tantinello confuso, però capito, circenses, cioè, visto che non c'è Opana, buttiamoci, aumentiamo la razione di circenses, anche a costo di avere poi un calcio più più dequalificato. Di questo ne va tenuto conto, perché guardi che una squadra se gioca 30 partite all'anno le gioca certamente a un livello superiore come qualità rispetto a 38, e poi sarebbe più competitiva nelle occasioni in cui è chiamata a giocare in competizioni internazionali. Lei per la quantità, io sono per la qualità, ma attualmente sta vincendo lei. Che poi dobbiamo esagerare e giocare ancora di più, francamente mi sembra un tantino eccessivo. Ingler ieri sera è stato graziato, sono d'accordo con lei, scrive Jacopo da Vicenza. Sì, ma non era una polemica, sia ben chiaro, perché graziati sono stati per me in questa giornata, sono stati Montolivo a Udine per un'entrata da rosso assoluta e Lucio l'altra sera sul portiere alla Roma, graziati veri. Poi diciamo che ieri sera c'è stato qualche esitazione disciplinare da parte di Tagliavento a Napoli. Se parliamo di irruenza, Ingler nel primo tempo in almeno un paio di occasioni, se parliamo di comportamenti non accettabili, Nesta per esempio nel secondo tempo. Ringrazio Luciano da Pisa perché, essendo tuttora il nostro amico che si occupa di economia al Sole 24 Ore, Marco Bellinazio, che è spesso e volentieri ospite qua, mi illumina su una risposta mancata prima da un ascoltatore. Quindi grazie Luciano per aver scritto che la Juventus perde l'8% in borsa e potrebbe forse perdere anche di più, perché venerdì pomeriggio a borse chiuse è uscito un meno 95, che è il rosso di gestione della Juventus nell'ultima stagione. Dopodiché Michele Cortellini scrive: il Napoli è anche giovane, E le ricordo Cavani 87, Amsic 87, Lavezzi 85, Inler 84, Gargano 85. Il Napoli è giovane fino a un certo, insomma, questi non sono giovani, questi sì, o meglio, beati loro che hanno 24, 25, 27 anni. Però non mi sembrano così, stanno avviandosi verso la maturità, e questa semmai è un segno positivo, perché sono giovani, ma sono giovani già maturi e già collaudati. Nicola, Napoli, buongiorno. Buongiorno Gananzini, complimenti per la trasmissione. Le volevo far fare una riflessione un pochettino più ampia, cioè storica, sul calcio italiano, no? Nel senso che dal dopo Superga, cioè negli ultimi 60 anni, le uniche squadre sono riuscite a vincere il titolo, cioè sono sempre state le solite tre, e due volte Napoli, Roma, Lazio e Fiorentina, il resto poi una volta ciascuno. E non c'è stata mai una vera e propria alternativa. E diciamo che solo il Napoli di Maradona ha messo un po' paura alle squadre del nord, riuscendo in 5 anni a vincere 2 titoli. Questo per dire che sarebbe il caso che il Napoli cominciasse a essere davvero un'alternativa valida, ma non, cioè, per dare più spettacolo, più bellezza poi al calcio italiano, perché quelle volte che la Roma è stata forte, poi dopo insomma è sempre poi rientrata nei rank, non ha mai avuto una squadra che poi ha dominato effettivamente, o almeno non proprio dominato, ma almeno scalfito un po' l'egemonia, va? Certo Nicola, sì, ma il principio dell'alternanza sarebbe, io continuo a elogiare il campionato tedesco, la Bundesliga, perché là c'è una, invece che essere 3 squadre che si alternano a vincere, ce n'è una sola, che è il Bayern, da 35-40 anni a questa parte, che in genere vince un campionato su 3, uno su 4, uno su 2 nei momenti più favorevoli, ma per il resto c'è una massima alternanza al vertice, al potere, anche se vogliamo. Quest'anno probabilmente un anno, potrebbe essere perlomeno un anno targato Bayern, ma arriviamo da stagioni in cui hanno vinto squadre diverse, ma proprio diverse, non dal Bayern, diverse anche tra loro, e questo secondo me non può che far bene al calcio. Marcello, chiamato da Milano, buongiorno. Buongiorno Tor Garanzini, sempre buongiorno. Un piacere, la saluto al suo rientro, anche sentivamo la sua mancanza d'estate. Ascolti, io ieri ho visto la partita, adesso sono milanista, e sono rimasto esterrefatto da come il Milan ha giocato, cioè ha subito quel secondo gol che io ho detto, ma sto sognando, cioè un Gargano che ti fa non so quante decine di metri, cioè mi è sembrato sorprendente che una squadra che vada a esporsi così al contropiede, sapendo che il Napoli gioca proprio a quel gioco di contropiede. Volevo da lei un parere, perché secondo me il Milan ha proprio affrontato male questa partita, molto male, al di là che poi il Napoli è andato anche un po' tutto bene. Il Napoli è bravissimo, è fortissimo, ma quando ha un giocatore che tocca la palla e mette sempre in rete, è un bel vantaggio. Poi ultima cosa, dottore, dato che parlava del Bayern, mi segnerei il Bayern come una delle possibili vincitrici della Champions League. Sì, non mi sembra male quest'anno. L'ho già anche detto lo scorso martedì, poi per carità ne deve passare di acqua sotto i ponti, ma è certamente una squadra da tenere d'occhio quest'anno. Sì, il secondo gol che prende il Milan ieri sera è un gol abbastanza imbarazzante per una grande squadra, però io non ne farei una questione collettiva, io ne farei una questione individuale, perché è Van Bommel che a un certo punto è in posizione da semaforo rosso, no? Nel senso che Gargano da lì non può passare, nel senso che sì, Van Bommel gli fa fallo, Van Bommel si becca il suo cartellino giallo, ragazzi, ma fosse una verginella che non è mai stata ammonita nella sua vita è un conto, ma è uno che un cartellino a partita, cioè gli sembra quasi di non aver giocato, quindi è abbastanza incredibile, no? che gli dia il verde, perché Gargano fa un affondo di una 60 metri, molto bello, poi scarica la palla a Cavani al momento giusto, però c'era un solo momento in cui prenderli, perché poi il contropiede il Napoli lo sa fare, e lo sa fare bene in Italia, anche in Europa l'abbiamo visto mercoledì sul campo del City, però lì c'è stato un passaggio obbligato in cui davvero Van Bommel deve aprire, basta che apra il braccio e Gargano non può passare, la palla ferma, un cartellino giallo, insomma si chiama fallo tattico, lo fanno tutti, non è che sia diventato un'ignominia, ed è incomprensibile come Van Bommel non l'abbia commesso. Andiamo a sentire un'altra voce, magari cambiando un tantino genere, uscendo dalla logica delle grandi, perché per esempio ieri, vabbè, io credo che il gol più bello sia stato quello di Aquilani, sinceramente, sia per la per la bellezza dell'assist di Cassano, che poi si è ripetuto subito dopo. Cassano per il mio il migliore o il meno peggiore del Milan ieri sera, anche per le botte che ha preso e per non aver fatto una piega, si è rimasto in campo fino alla fine, quindi molto bello quel tuffo di Aquilani, ma Aquilani è un giocatore conosciuto, Cuadrado meno, Jorquera molto meno. Ho visto un assist di Bonaventura dell'Atalanta per il gol di Dennis, ma veramente bello, soprattutto veramente bello e soprattutto efficace, quindi insomma qualcosa di diverso un pochino c'è. Allora volevo sentire Malesani, sia perché la sua è la vittoria del giorno, tolta quella del Napoli, la vittoria del giorno, perché sul campo della Lazio nessuno si aspettava la vittoria del Genoa, sia perché poi parla proprio di questo Jorquera, che è un pochino l'uomo nuovo del Genoa. Sono felicissimo, bello soprattutto per loro, perché siamo una squadra ancora in via di lavoro in corso, allora a volte bisogna anche portare fuori partite come questa, dove magari il primo tempo abbiamo sofferto un po', però poi siamo usciti alla grande con grande personalità e abbiamo vinto, ecco, quindi ci dà forza, coraggio, motivazione per continuare il nostro lavoro e diventare sempre meglio. Ma l'ingresso di quel ragazzino che a me piace tanto, che è Jorquera, ci ho pensato un attimo, ho detto è meglio farlo esordire subito perché sta impressionando in allenamento, ha scombussolato un po' così credo il sistema tattico della Lazio. Jorquera, in effetti il modo in cui avanza palla al piede, un po' ondeggiando, un po' non dando mai il tempo di intervento ai difensori della Lazio, e poi serve il compagno, serve Palacio sul gol del pareggio del Genoa, insomma, un'azione davvero bella. Mentre questo Cuadrado, questo giocatore del Lecce, una facilità di corsa impressionante, e poi sia in andata che in ritorno, cioè sia in fase di possesso che di recupero, poi una volta che la palla nei piedi mi pare che sappia come, che cosa farne, e quindi è giusto ogni tanto anche ricordare appunto i Cuadrado, i Jorquera, i Bonaventura, magari in una giornata in cui, non so, Runi scivola sul dischetto in maniera veramente, per carità, è involontaria comicità, però è comicità anche la sua, no? Scivola sul dischetto del rigore in un modo stranissimo, in cui Torres, che pure ha giocato forse la sua miglior partita nel Chelsea, sbaglia un gol a porta vuota che non è pensabile, semplicemente, e quindi parliamo anche di queste seconde linee. Guarda caso Cuadrado, mi fa notare Franco Piantarita, è un prestito al Lecce dall'Udinese, e quindi è un altro di questa scuderia che arriva alla corte dei Pozzo, che arriva per poco, e che poi io gli auguro di andare via, se non al prezzo di Sanchez o di Ingler, ma insomma da come si muove, da come si mette in evidenza, potrebbe anche rivalutarsi a quella maniera. È il momento di Nicola Filippone e della giornata del 19 settembre. Sembra ieri. 19 settembre 1988. Alle Olimpiadi sudcoreane, l'Italia di Francesco Rocca subisce una pesante sconfitta fuori programma. A Kwangju, lo Zambia travolge per 4-0 la rappresentativa olimpica azzurra. A trascinare la formazione africana al clamoroso successo è Kalusha Boualia, attaccante che gioca in Belgio. L'Italia si riprenderà dallo shock raggiungendo le semifinali, ma l'umiliazione inflitta dallo Zambia rimarrà tra le pagine nere del calcio nazionale, richiamando nell'immaginario comune quella subita ai mondiali del 66 dalla Corea del Nord. Lo stesso giorno, 19 settembre, vabbè, a parte la ricorrenza di San Gennaro, ci fu la prima schedina del Totocalcio. Momento, il Totocalcio risale al 5 maggio del 46, ma era la Sisal allora, si chiamava infatti schedina Sisal. La gestione diretta del concorso pronostici, invece, da parte del CONI, produsse la prima vera schedina del Totocalcio, appunto a gestione CONI, il 19 dicembre del 48, restò ancora per qualche tempo a 12 risultati, tant'è vero che la tredicesima partita, quella da cui derivò poi l'espressione storica, far 13 al Totocalcio, risale invece a 3 anni più tardi, al e 951. Lorenzo ha chiamato dalla provincia di Bari, buongiorno. No, io sono Massimo e chiamo da Livorno. Lei è Massimo e chiama da Livorno e quindi va bene. Non... Buonasera. Le chiedo senta, scusa. Prego, prego, non fa niente. Velocemente, volevo dirle alcune cose. La prima, io sono simpatizio Inter, ma ho 60 anni, quindi la mia è una simpatia che viene dal passato e da Terosa, quindi ho visto giocare a Buoninsegna, ho visto giocare anche i Ciuarini nell'Inter, quindi lei capirà. La seconda, sono fra i pochi tifosi interisti, e qui volevo veramente una sua considerazione, che ha un po' difeso Benitez, tenendo conto che il primo periodo di Benitez l'anno scorso fu quello con tutti i ragazzi e tutto il resto, che lei si ricorderà benissimo. La terza, non le sembra che quest'anno l'Inter abbia clamorosamente cannato la campagna acquisti, comprando gente che secondo me aveva bisogno a centrocampo e invece ha comprato gli Zarate, gli Alvarez e tutto il resto, di cui non riesco a fare una, per così dire, una valutazione tecnica se siano bravi o meno bravi, ma secondo me c'era dei ricambi che migliori da fare a centrocampo su Cambiasso e su gente che ormai ha tirato da un po' la carretta. L'ultima, le vorrei dire però da un punto di vista, ecco, questo più giornalistico, e lei mi interesserebbe molto, perché da un punto di vista mediatico, tutto il resto, l'Inter subisce, diciamo secondo me, una pressione dai media che altre squadre, vedi Juventus con la stampa, Tutto Sport, o vedi Milan, ne parliamo, non ne hanno, se si tiene conto che in fondo però dopo due giornate l'Inter non ha un progetto, mentre la Roma ce l'ha, il Milan gli manca 7 titolari e noi ci siamo dimenticati che l'anno scorso l'Inter invece aveva tutti questi infortunati. Ecco, lei che cosa ne pensa? Penso che lei stia facendo della storia, penso che lei stia mettendola in termini storici e avendo magari qualche parte di ragione, ma il calcio è cronaca essenzialmente, cioè, se ci mettiamo a fare della storia, allora può essere piacevole in certe situazioni, in certi casi, ma visto che lei sta parlando di attualità e lo fa in termini storici, mi sembra leggermente fuori luogo, nel senso che questa è cronaca oggi. Dopo due giornate l'Inter ha quei punti, il Milan ha quei punti, il Milan ha 7 infortunati, probabilmente li ha davvero, non so, non li ho contati, ma probabilmente li ha davvero. L'Inter, che l'anno scorso aveva invece una falcidie di infortuni, al momento non ce li ha, o perlomeno non nelle stesse proporzioni. L'Inter cade inevitabilmente più dall'alto, perché viene da alcuni anni di protagonismo assoluto. La Juventus viene, per esempio, da tutt'altra fase, tutt'altro ciclo. Il Milan ha vinto l'anno scorso dopo un periodo non certamente ricco di trionfi, e quindi mi sembra tutto abbastanza regolare, soprattutto se lo mettiamo nell'ottica della cronaca. Dunque, Massimo da Livorno era lei, e quindi adesso ci dovrebbe essere Umberto da Salerno. Buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Allora, l'ascoltatore che mi ha preceduto parlava a proposito del pallone d'oro per Cavani, no? Io credo questo, che vabbè, è chiaro che in un momento di esaltazione come questo tutto è lecito, però è chiaro che credo che un giocatore come Cavani trovi la sua migliore espressione col gioco di Mazzarri. In effetti il Napoli, quando la bravura del Napoli è stata quella di acquistarlo e di cedere Quagliarella, è lì che ha fatto secondo me un grosso, il Napoli ha visto giusto, perché con Mazzarri Cavani è diventato attaccante puro. Col Palermo giocava più sulla fascia, se non vado errato, più da trequartista, e quindi credo che proprio per questo forse non gioca nell'Uruguay anche Cavani, perché probabilmente quello che può dare nel Napoli non lo riuscirebbe a dare nella nazionale, proprio perché è il modulo di Mazzarri che ne esalta le caratteristiche. Volevo sapere lei che cosa ne pensa a riguardo. Ma io penso che Mazzarri le sarà o le sarebbe grato se fosse in ascolto di questa interpretazione. Il modulo del Napoli, il modulo su cui Mazzarri ha impostato il Napoli, è certamente propizio alle caratteristiche di Cavani, anche perché non stiamo parlando di due giornate in questo caso, cioè di cronaca, parliamo di una cronaca più lunga, già un po' stratificata, per esempio a tutta la scorsa stagione. Dopodiché io credo che un attaccante che sa svariare come Cavani non vedo perché non potrebbe giocare in nazionale l'Uruguay al posto di Forlan, per esempio, o al posto di Suarez, è che quella è la coppia di titolari, di attaccanti titolari dell'Uruguay. L'Uruguay ha fatto con Suarez e Forlan un quarto posto all'ultimo mondiale. Questo ha, come dire, li ha messi in pole position con Tabarez per rigiocarsi anche la Coppa America. Hanno fatto bene anche in Coppa America, e quindi Cavani non ha ancora trovato posto, ma indipendentemente dal fatto da un modulo o non da un altro modulo. Tenga anche conto che ieri sera mi ha molto, sì, certo che sono i tre gol che ti impressionano e ti fanno veramente colpo, ma pochi minuti dopo il terzo gol Cavani interrompe un contropiede di Pato, ma non un contropiede di Pato a metà campo, cioè va a prendere lui Pato sul vertice sinistro dell'area del Napoli, cioè su una fase d'attacco del Milan in cui il Napoli era rimasto un po' scoperto ed era toccato a lui ripiegare. Mi è sembrato da un certo punto di vista ancora più significativo dei gol, perché vuol dire che non è l'attaccante che sta lì ad aspettare la manna o il lancio in profondità, vuol dire che è uno che ci crede davvero fino in fondo. Simone ha chiamato da Torino, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Niente, io sono tifosissimo del Novara Calcio. Domani avremo una giornata storica noi tifosi del Novara, perché la nostra squadra tornerà a calcare nel suo stadio, insomma, in casa, una presa di Serie A dopo 55 anni, quindi può benissimo immaginare l'emozione e anche l'entusiasmo che c'è a Novara. Lo stadio è già tutto esaurito già da mercoledì scorso, faccia conto che martedì hanno aperto la vendita dei biglietti, martedì scorso, e mercoledì erano già tutti esauriti, quindi emozioni alle stelle, sì, un po' di retorica magari, e il sintetico di Novara da calcare. Molto bene, ne parliamo ampiamente domani e poi nei giorni a seguire. Grazie Simone, grazie a tutti gli intervenuti, a Pietro Lacorte in regia, a Franco Piattanini in redazione, buon pomeriggio.